si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori e benvenuti a questa prima puntata di questo nuovo programma in diretta ogni domenica a mezzogiorno a caccia di buone notizie per tirarci un po' su il morale questa settimana, a dire la verità con il fiato sospeso per quello che succede all'isola del Giglio, contro la crisi che morde, contro lo spread che non ci molla e contro l'aria che si fa sempre più pesante a Milano. Dobbiamo salire sui grattacieli per respirare un po' d'aria buona, speriamo da domani nell'aria C. Noi proponiamo un'altra attualità, un'Italia che resiste, osa e qualche volta raggiunge anche qualche successo positivo, e ci insegna soprattutto che si può fare. Notizie, ospiti e anche i vostri interventi all'800 24 0024. Allora possiamo cominciare oggi con il primo argomento. Era il 15 gennaio del 1993, cioè esattamente 19 anni fa, quando veniva catturato a Palermo Totò Riina, il boss della mafia, nel suo covo di via Bernini 54. Adesso l'ultimo rifugio del capo mafia corleonese, con annessa piscina, immerso in un lussuoso complesso residenziale nel quartiere Uditore a Palermo, ospiterà una caserma dei carabinieri. Un segnale forte che è stato dato da parte delle autorità, è stato firmato il decreto che consegna da parte dell'assessore Carmelo Russo al generale Teo Luzzi, il comandante provinciale dei carabinieri, la palazzina che ospiterà il comando dei carabinieri. Ma c'è un'altra buona notizia che viene da Palermo, a pochi metri da quello di cui abbiamo appena parlato, ed è il fatto che ieri è stato inaugurato, sono stati inaugurati i lavori per l'apertura di un nuovo spazio verde rimasto per quasi 40 anni inaccessibile. Aprirà infatti il parco della memoria della legalità, luogo di incontri, dibattiti, opportunità per non dimenticare il sacrificio di tanti eroi della lotta alla mafia e la ribellione di un intero popolo. C'è stato uno stanziamento di 100.000 euro in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti, il Corpo Forestale, che ne curerà la custodia e la gestione. Ne parliamo con Giovanni Callea, esperto di marketing nella vita normalmente, ma fondatore del comitato Uparco. Buongiorno. Buongiorno. Ieri era prevista l'inaugurazione del cantiere per iniziare questi lavori e recuperare questo parco. Prima di tutto le chiedo, è andato tutto bene? Perché a volte quando si parla di queste iniziative si fanno degli annunci che poi non seguono i fatti. Invece? Ma è andato veramente molto bene, anche perché la scelta è stata fatta di inaugurare più che l'inizio dei lavori una visita guidata al cantiere aperto, quindi i lavori sono iniziati già da un paio di mesi. E quindi diciamo già si è potuto vedere lo stato di avanzamento dei lavori in corso. Ci racconti questa storia, la storia del recupero di questo parco importante in una zona importante della città, come abbiamo detto, nato dalla mobilitazione di un comitato di quartiere, una storia che sta avendo un lieto fine e di cui lei è protagonista. La storia è molto bella intanto perché quest'area è un'area di 9.000 metri quadrati, quindi veramente molto grande, sarà uno dei parchi più grandi di Palermo, ed è sita praticamente sulla principale arteria della città, che è la circonvallazione. Ed è un'area che di fatto a Palermo conoscono in pochissimi, perché è oscurata da un muro molto alto sulla quella che noi chiamiamo la rotonda di via Leonardo da Vinci. Quindi diciamo, si passa di là quotidianamente, tutti passiamo in questa strada più volte alla settimana, ma la città ignora che dentro c'è quest'area verde. Io ho la fortuna di abitare vicino e ho visto dall'alto questo spazio, e quindi diciamo, circa un anno fa ho lanciato la proposta di farne un parco cittadino. E la proposta non è rimasta isolata, perché ci sono stata una mobilitazione anche su Facebook, avete già un sacco di sostenitori. Sì, diciamo che la cosa bella è che tutto nasce da un post su un blog cittadino che si chiama rosalio.it, sì, e che un po' diciamo, segue i movimenti in città. Da lì si sono aggregate direi decine e centinaia di persone operativamente, quindi si è attivata una raccolta firme sulla carta, che è una cosa importante, perché al di là delle cose su Facebook sono bellissime e ti fanno girare le informazioni, però il fatto che la gente si sia raccolta in dei punti di raccolta, sia andata a firmare, ci vuole un po' di concretezza, certo, eccetera, di l'idea dei numeri, e noi oggi abbiamo più di 8.000 sostenitori che hanno firmato i moduli cartacei e poi chiaramente grandissima mobilitazione su internet, eccetera. Ma la cosa che io ritengo veramente importante è che si è creato un nucleo grosso di cittadini, diciamo, a parte i più attivi, che sono comunque qualche decina, sono varie decine che si sono attivati ciascuno a vario titolo per dare un contributo operativo. Poi però è arrivato il momento nel quale le autorità vi hanno preso sul serio, le istituzioni locali, e hanno annunciato che si sarebbe fatto qualcosa. Sì, devo dire che anche questo è, secondo me, è un aspetto interessante della vicenda che ci potrebbe aiutare a rivedere un po' tutta la nostra, il nostro rapporto con le istituzioni. Nel senso che io poi abbiamo avuto modo di incontrare il presidente della regione che è proprietario dell'area, perché l'area, poi magari dico due parole sulla storia, però quest'area oggi è di proprietà regionale. L'ho incontrato in un incontro pubblico e gli ho detto: ma si può fare questa cosa? Lui mi disse: se è vero, cioè se è vero che siete così tanti e che la volete realizzare, io la mia parte la faccio. E devo dire che ha mantenuto fede all'impegno e nei mesi successivi si sono attivati gli altri assessorati di riferimento. L'area è stata trasferita a un braccio operativo della regione, che è il Corpo Forestale, che si è occupato anche di rimettere in sesto il verde. E poi la cosa secondo me significativa è che è partito un lavoro a stretto contatto tra le istituzioni, quindi nella fattispecie la regione, sia con la presidenza che con l'assessorato all'economia, che era in pratica aveva la gestione del bene, sì, la persona dell'assessore Armao, ed è stato trasferito il tutto alla Forestale, che con l'università ha collaborato al progetto. L'università non soltanto in quanto istituzione, ma più che altro come professori di architettura, che hanno coinvolto i loro studenti, in particolare il professor Leone, ha coinvolto i suoi studenti del corso, che di fatto per ora sono sul campo e stanno progettando. Insomma, una mobilitazione che davvero si è estesa a macchia d'olio e che potrà coinvolgere magari anche i carabinieri quando verrà realizzata la stazione dei carabinieri nel ex covo di Rina, che è lì a due passi, potranno andare a fare due passi proprio nel parco, no? Perché sono due storie vicinissime tra di loro. Praticamente sono due storie veramente intrecciate, perché praticamente sia la caserma dei carabinieri che è stata affidata ai carabinieri questo spazio anche con un finanziamento per la ristrutturazione, sia un annesso immobile vicino sempre sequestrato alla mafia, la famiglia Sansone, che è stato invece affidato all'ordine dei giornalisti, che come si sa ha anche lui le sue vittime nell'ambito del contrasto alla mafia. Ma comunque la cosa interessante è che Drina si nascondeva in questo posto e quando fu catturato fu realizzata una grossa messa in scena, per cui fu raccontato che fu catturato all'interno di quest'area. In realtà fu una strategia per distrarre dal reale luogo in cui lui fu catturato, quindi diciamo si raccontò per anni che lui fu catturato in questo posto. E fondamentalmente sono 200 metri in linea d'aria tra questo spazio e quello. Senta, peraltro sì. Questi 9 ettari erano affidati a, ripercorrendo rapidamente la storia del posto, li ha avuti in gestione per una trentina d'anni un'altra famiglia famosa, mafiosa della zona, il Gelsomino. Quindi sicuramente questo aggiunge, diciamo, intensità a questa storia. Ci dica una cosa però, perché noi qua recentemente a Milano abbiamo avuto per esempio il processo all'Andrangheta, un sacco di condannati, il nord sta prendendo coscienza con la vicinanza della mafia, invece voi a Palermo, in Sicilia, storie di società civile che rinasce, Confindustria, Lobel, lo sappiamo che vuole espellere chi paga la mafia, le attività di Dio Pizzo, recuperi vari. Come ci si sente a guardare dall'alto in basso il nord una volta tanto? Avete qualche consiglio da darci, Callea? Ma io penso che siamo tutti sulla stessa barca. È un problema generale condiviso e che può essere risolto soltanto se la collettività si rende conto che ha delle responsabilità e deve assumersene in prima persona. Quindi vale al sud e vale al nord. In realtà è meno conclamata probabilmente la presenza della mafia al nord, e quindi questo può rendere più complesso prendere coscienza del problema, però è identico in tutta Italia, siamo un unico paese in realtà. Grazie allora a Giovanni Callea che ci ha raccontato queste belle storie di Palermo. E anche a partire da questo vogliamo sollecitarvi la domanda di oggi: recuperare in Italia, si può recuperare luoghi, spazi abbandonati, parchi, scuole, chiese, edifici, quello che volete? In Italia non si può più costruire, ormai di cemento ce n'è già troppo, invece si può dare nuova linfa alle città e ai quartieri con spazi pubblici che favoriscono vita, relazioni, socialità. Avete un esempio da raccontarci oppure volete oggi approfittare della trasmissione per lanciare la vostra petizione, il vostro annuncio per salvare un luogo della vostra città che vi sta particolarmente a cuore? 800 0024 00 24. Tra pochissimo rientreremo parlando anche d'altro. 2012, anno delle energie sostenibili secondo l'ONU, i progressi nell'agricoltura biologica e poi anche in tempi di crisi l'utilità del baratto che ritorna, un caso interessante di welfare aziendale e poi l'invenzione di uno studente per semplificare la raccolta differenziata. Eccoci qua, un paio di notizie per iniziare questa seconda parte. Parliamo di agricoltura biologica contro le frodi. Arriva Authentic Food, l'impronta digitale che autentica i prodotti. Un progetto coordinato dall'Università di Copenaghen, al quale partecipa anche l'Italia con la Fondazione Edmund Mach, e che vede in campo anche l'IAB e BIOS, impegnati già da novembre a costruire un nuovo sistema di controllo capace di amalgamare le diverse competenze analitiche, così si legge nel documento, agronomiche e di controllo per rendere più sicuro il biologico, perché sappiamo che uno dei motivi per cui la gente non si fida è proprio che c'è questa mancanza di fiducia sui prodotti dell'agricoltura biologica. Dunque una buona notizia, vedremo se questo studio porterà ad un sistema di controllo antifrodi più forte di quello che c'è adesso. Tra l'altro l'autorità per la sicurezza alimentare ha sede europea, ha sede proprio a Parma, quindi l'Italia è in prima linea. Altra notizia, i controlli del Ministero della Salute sui pesticidi nei prodotti dell'agricoltura italiana sono molto positivi ai primi di gennaio. Solo lo 0,6% della frutta fresca controllata contiene pesticidi sopra la norma e solo lo 0,3% dei cereali risulterebbero al di sopra della norma, una media molto più bassa della media europea, che è di 3 volte superiore. E poi, sempre in questo campo, vogliamo segnalarvi il rapporto di Green Italy di qualche settimana fa, che dice che anche per il 2012 l'attesa per l'occupazione nel settore della green economy è altissima, quindi se volete trovare lavoro dovete buttarvi su questo settore, perché quasi il 40% delle nuove assunzioni programmate per quest'anno saranno nel campo della green economy. Altro argomento, 2012, anno internazionale delle energie sostenibili. Si può fare, secondo le Nazioni Unite, si può diffondere sempre di più le energie sostenibili, quelle che non sfruttano le risorse naturali e che poi finiscono, come il petrolio e il carbone, ma quelle che si rinnovano, il vento, il sole, l'acqua. Secondo l'ONU, l'obiettivo dell'accesso universale alle energie sostenibili può essere raggiunto formalmente entro il 2030. Come? Investendo solo il 3% delle spese globali destinate all'energia per i prossimi 20 anni, e così si garantirebbe questo importante obiettivo. Ne vogliamo parlare con Mario Salomone, professore di sociologia dell'ambiente. Buongiorno. Buongiorno a voi. Professore a Bergamo, direttore anche di un istituto che si occupa di questo, divulgatore scientifico, lei ha anche partecipato qualche giorno fa alla conferenza con la società civile organizzata dal ministro dell'ambiente Clini, proprio in vista anche di questi obiettivi. Obiettivi tra l'altro ambiziosi, ma quello che le chiediamo è: si può fare, visto anche il titolo del programma, cioè l'ONU metterà in campo dei mezzi, perché sappiamo che ci sono molte resistenze a andare in questa direzione, professore. Sì, non è tanto l'ONU che non ha mezzi, sono poi i singoli stati che dovranno adottare delle politiche adeguate. Le risorse finanziarie ci sono, perché se pensiamo solo i sussidi ad aziende dannose per l'ambiente, nel campo dell'agricoltura, della pesca, delle infrastrutture, dell'energia, vengono spesi nel mondo 2.000 miliardi di dollari ogni anno, quindi che potrebbero essere dirottati invece verso il miglioramento dell'ambiente. Senta, questo sarà un obiettivo che monitoreremo durante tutto il 2012, che appunto è stato decretato dalle Nazioni Unite, un fatto più che altro simbolico, però importante a sottolineare questi obiettivi, l'anno delle energie sostenibili. Dicevamo, professore, che, e lei di questo ci parlerà, che l'economia verde, insomma, continua a produrre un sacco di occupazione. Quali sono le professionalità più richieste? E poi ci parli un po' di questo trend. Senz'altro positivo. Allora, sappiamo che le imprese della green economy, ovvero dell'economia ecologica, esportano mediamente il doppio delle altre e assumono mediamente di più, quindi questo è il dato. Inoltre l'occupazione in questo settore è mediamente più stabile e mediamente più qualificata, ecco, quindi puntare su questo vuol dire avere più certezze occupazionali, più opportunità occupazionali. Lei mi chiede quali sono i campi, i 3 grandi nodi da affrontare, quindi dove bisognerà investire e dove ci sono professionalità da impiegare, sono il cibo, l'energia e l'acqua. Queste sono le 3 emergenze, le 3 sfide che l'umanità ha di fronte a sé nel futuro. E io vorrei leggere anche, secondo questo rapporto che citavamo di Green Italy, quali sono i nomi delle professionalità, naturalmente è una selezione forse anche arbitraria, più ricercate dalle aziende in questo settore. Quindi per chi vuole mettersi in un percorso, per esempio, di studi, sappia che le professionalità più ricercate nel 2012 saranno l'auditor esperto in emissioni di gas serra in atmosfera, il tecnico superiore per l'industrializzazione, qualità e la sostenibilità dell'industria del mobile, operatore di marketing delle produzioni agroalimentari biologiche, ne parlavamo poco fa, lo statistico ambientale, e poi c'è ancora il risk manager ambientale, l'ingegnere delle emergenze, il progettista di architetture sostenibili. Per chi è già impiegato in questi campi sembrerà di parlare di cose normali, per chi invece è un po' a digiuno sembrano cose anche un po' assurde e stralunate. Professor Salomone, quali sono i percorsi anche universitari, visto che lei insegna all'università, per avvicinarsi a queste professioni? Poi sappiamo non ci sono solo quelle di altissimo livello come queste, ma poi ci sono, c'è chi tiene l'agriturismo, chi fa il contadino, e anche queste sono professioni green, no? Sì, tra l'altro professioni che diventano sempre più complesse. Fare il contadino non è come una volta che bisognava solo seminare e raccogliere, oggi bisogna essere anche un comunicatore, un organizzatore, un manager, un educatore se si è fattoria didattica. Quindi ecco quello che dicevo prima, che le professioni del green economy sono più qualificate proprio perché diventano tutte più ricche, più complesse, sono necessarie più interconnessioni, più visione complessiva, approccio sistemico. Quello che io consiglio ai giovani, agli studenti, quindi non tanto di pensare che ci siano delle specifiche opportunità formative, ma è importante che in ogni percorso formativo, dalla giurisprudenza all'ingegneria, tanto per dire, si costruisca un percorso. Oggi conta molto quello che ci si prepara a fare durante il proprio percorso formativo, non tanto poi la singola materia. Pensiamo che potremmo considerare una professione verde anche fare il carabiniere nei nuclei operativi ecologici, quindi non soltanto certo l'ingegnere ambientale. Senta, ma lei che ha un po' il polso anche dei giovani ai quali insegna l'università, secondo lei c'è una consapevolezza, immagino di sì, di questa impellenza che ormai sono anni se ne parla, però continuiamo a leggere cronache in cui si parla di ci sono troppi avvocati, ci sono troppi medici, troppi notai forse, anche se adesso vogliono aumentare per liberalizzare, e invece i giovani secondo lei sono pronti a cambiare strada? Sì, sono molto disponibili, li vedo molto curiosi, molto interessati, sono in contatto fra loro con i social network, con Facebook. Poi è chiaro che dovranno anche pensare delle tendenze di lungo periodo, quindi chi oggi affronta un percorso formativo non deve tanto guardare quali saranno le professioni del 2012, ma quali saranno le professioni del 2015 o del 2020. E come dicevo, le tendenze ci portano tanto verso gli ecomateriali, cioè noi dobbiamo sostituire materiali non rinnovabili con materiali rinnovabili. Sull'ecodesign, cioè la progettazione in ogni fase, dall'origine di tutti i prodotti, in modo che consumino meno, che siano aggiustabili, che siano recuperabili e che poi siano rimettibili nel circuito, quindi non più dalla culla alla tomba, ma dalla culla alla culla. Ecco, questo deve essere il ciclo dei materiali nei processi certo industriali. Va bene, grazie professore, allora ci ha aiutato un po' a districarci in questa materia, grazie al professor Salomone, e tra l'altro restiamo in tema con il prossimo argomento. Voglio andare a vivere in campagna, voglio la rugiada che mi bagna. E più che andare a vivere in campagna, io vorrei andare a lavorare alla Convert Italia, perché è green anche il caso di welfare aziendale di cui vogliamo parlare questa settimana. Di cosa parliamo? Parliamo del fatto che questa azienda che si occupa di energie rinnovabili, manco a farlo apposta, ha deciso, visto quello che il decreto Salva Italia del governo Monti, che era introdotto la tassa sugli immobili, di pagare l'IMU per i suoi dipendenti, così per dargli una mano. E allora ne parliamo con Giuseppe Moro, amministratore delegato di Convert Italia. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori, grazie. Ci descriva questa iniziativa di cui abbiamo in parte anticipato, e soprattutto ci racconti le facce dei suoi dipendenti quando hanno appreso la buona notizia. Sì, la decisione è stata, appunto, io mi trovavo all'estero in una situazione un po' di privilegiato, e quando sentivo, specialmente prima di Natale, che il governo aveva deciso di reintrodurre l'ICI, adesso IMU, Certo, sono rimasto veramente un po' disturbato dal pensare che i miei dipendenti, che ovviamente hanno degli stipendi da lavoratori come un po' tutti quanti, che alla fine del mese avrebbero avuto quello dei 100-150 euro in più da pagare, che probabilmente gli avrebbero accorciato il fiato. A questo punto mi è venuto spontaneo di visto che l'azienda va bene, siamo nelle rinnovabili, ci diamo tanto da fare, e negli ultimi due anni le cose sono andate molto meglio, ho deciso di interpellare il consiglio di amministrazione, che tra l'altro è fatto parzialmente anche dai dirigenti d'azienda, di concedere, di pagare noi l'IMU ai dipendenti. Quanti dipendenti avete? Quanto vi costa? Noi abbiamo 60 dipendenti, sì. Ovviamente l'IMU noi non interveniamo con i dirigenti, ma interveniamo con tutti i dipendenti che ne fanno richiesta. Stiamo adesso facendo, sì. Già abbiamo emanato già le norme, stiamo aspettando che ci rispondano, ma insomma c'è un certo numero, via. Immagino appunto la soddisfazione tra i dipendenti quando hanno appreso questa notizia. Una storia un po' ad altri tempi, se mi consente Moro, perché insomma un tempo c'erano le grandi imprese che con lo sviluppo, il vento in poppa, davano ai lavoratori tutto questo welfare aziendale, asili, case, viaggi, eccetera. È questa forse la chiave anche della vostra storia, cioè lo sviluppo che c'è nell'economia green, e quindi un'azienda come la vostra che ha prospettive positive può permettersi anche una cosa come questa. Beh, mi aspetto un po' un effetto domino anche in questo, cioè chi c'ha di più deve dare di più, credo che ormai è abbastanza consolidata questa idea, e mi sono proprio sentito che dovevamo farlo. Di fatto anche l'altro anno abbiamo dato a fine anno un 5% in più del proprio stipendio a tutti i dipendenti, perché andavamo bene, cioè siamo abbastanza abituati, tant'è che i nostri dipendenti sì si sono sorpresi, mi hanno commosso di chi non lo riceveva, perché magari non era la prima casa oppure non era nelle condizioni, e sono stato veramente circondato da segnali di affetto. Ma siccome poi i miei dipendenti mi conoscono da tanti anni, ho dipendenti che stanno con me da 30 anni, pensi un po', quindi mi conoscono e quindi non sono rimasti del tutto sorpresi da questa iniziativa. Io la ringrazio, Giuseppe Moro, grazie per essere stato con noi. Buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori. Si può fare oggi la domanda che vi facciamo all'800 24 0024 è: si può fare recuperare spazi, luoghi abbandonati delle vostre città? Se volete raccontarci il vostro esempio, abbiamo parlato di quello che accade a Palermo, dove viene recuperato un importante parco al centro della città, vicino al luogo dove venne catturato tra l'altro Totò Riina, oppure se volete approfittare del programma per lanciare il vostro annuncio, la vostra richiesta, la vostra petizione per salvare un luogo che vi sta particolarmente a cuore. Tra l'altro c'è una notizia che vi vorrei dare, che viene dal comune di Auletta, dove un comune che è stato colpito dal terremoto, pensate, nel 1980, un piccolo comune, un borgo, la parte centrale della città, non ci sono state le risorse per ristrutturarle, è rimasto oggi un parco ruderi, così è chiamato, una porzione di case diroccate, e il comune ha pensato di fare un concorso di idee. Chi ha un'idea per ristrutturare questa parte del borgo di Auletta può scrivere, e ci sono in ballo anche 2,5 milioni di euro per rilanciare questa piccola cittadina. Ascoltatori, abbiamo qualcuno che ci ha chiamato, Dario, che ci chiama da Berlingo e dovrebbe essere anche il sindaco di una città. Ce l'abbiamo? Buongiorno. Buongiorno, grazie. Che storia ci racconta? Sì. Sì, la nostra piccola esperienza del comune di Berlingo riguarda il recupero di un'area degradata, praticamente 45.000 metri quadri in centro al paese, che erano occupati da una discarica di rifiuti tossico-nocivi, intorno alle 30.000 tonnellate, sono state interamente bonificate, asportate, collocate in discariche autorizzate grazie a un contributo alla Regione Lombardia. In quel sito poi abbiamo realizzato tre scuole, l'ultima, la scuola media, è in corso di realizzazione, una palestra, un bar, degli impianti sportivi all'aperto, quindi è diventato un centro di comunità alimentato esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, perché forniamo riscaldamento con l'energia geotermica e elettricità col fotovoltaico. Insomma, avete fatto l'Amplein in provincia di Brescia, cioè ristrutturato, recuperato un luogo e tra l'altro data anche questa possibilità di sopravvivere grazie alle energie rinnovabili, quindi un progetto sostenibile. Grazie allora al sindaco del paese di Berlingo, e siamo in provincia di Brescia. Ci spostiamo, invece c'è un altro ascoltatore che ci chiama da Bologna. Eugenio, buongiorno, lei ha un caso di recupero o vuole denunciare un caso d'abbandono? Entrambi i casi, buongiorno a lei, buongiorno a chi ascolta. Io sono, a me piace fare mostre in luoghi abbandonati, mostre d'arte, di pittura, di scultura e quant'altro, in maniera così da riportare un po' le persone in luoghi abbandonati e un pochino di colore, ecco, semplicemente questo. E quindi anche questo è un modo per appunto occuparsi e dare nuova vita ai luoghi abbandonati. Grazie a Eugenio che ci chiamava da Bologna. Adesso il prossimo argomento. For a few years, shed a few tears, called each other nicknames like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home. Always busy this, busy that, can't talk on the phone. I know you aggravated, walk around frustrated. Io do a te, tu dai a me, dice questa bella canzone di Mariah Carey. Il senso è un tantino allusivo, si capisce facilmente. Ma anche l'argomento di cui vogliamo parlare noi parla di uno scambio. Io do a te, tu dai a me, si tratta del baratto. Una delle attività più antiche dell'uomo, naturalmente, precede sicuramente la scoperta della moneta. Oggi però torna d'attualità il baratto con oggetti anche di utilità in tempi, vogliamo dirlo, di crisi. Ma sì, perché no? Perché è questo di cui parliamo. E allora che succede? Che un signore di Sanremo si è inventato il baratto nella sua piccola comunità, nella città di Sanremo, con un profilo su Facebook nel quale si fanno gli annunci, poi ci si incontra in piazza e ci si scambiano gli oggetti, perché il baratto funziona, però se io devo andare da Milano a Roma per scambiarmi le cose è un tantino complicato. E invece Massimo Salaris, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Invece a voi. Lei ha pensato a Sanremo di farla così, di farla tramite Facebook. Sì. Come le è venuta in mente questa cosa? Mi è venuta in mente, appunto, dato lo stato mio di disoccupato, e ho detto qua mi serve un po' di roba, devo pigliare due soldini e due soldini non ce l'ho, ho detto ma vediamo un po' di tornare un po' al passato, scambiamoci le cose dalla nostra città, così non abbiamo neanche le spese postali, tutte queste spese o di corriere, una cosa e l'altra. Mi è venuto in mente, ho provato a farlo, ha dato un ottimo successo, però tutta questa cosa qua di partenza è dovuta allo scopo finale che volevo fare io, che vorrei fare io, un negozio a baratto a Sanremo per disoccupati e pensionati. Senta, il negozio, tra l'altro mi tolga una curiosità. Un spazio fisico proprio. Sì, sì, mi tolga una curiosità, ma non è che viene la Guardia di Finanza a controllare, perché se uno scambia non c'è passaggio di denaro. No, perché a parte che è baratto, come si dice, è garantito dal codice civile. C'è proprio un codice, delle norme di baratto sul codice civile che abbiamo noi in Italia. E poi mi sono informato tramite un amico commercialista che ha detto sì, si può fare, appunto. Però bisogna, ecco, creare un'associazione, come associazione, come persona fisica no, nel senso che non diventerebbe un'attività commerciale, allora sì. Non va bene. Invece come associazione che... Sì. A breve cercherò di fare. Perché lei, insomma, diciamolo, giustamente ha messo su questa cosa di cui adesso ci parlerà, e voglio sapere anche quali sono gli oggetti più scambiati, chi scambia, eccetera. Però lei dice: io sono un disoccupato, ho avuto questa idea, però non ci guadagno nulla. Se invece riuscissi a mettere su un negozio, un'attività che si basa sul baratto, allora la cosa sarebbe più interessante. Però mi diceva Salaris: gli oggetti più scambiati, e poi dove vi trovate? In piazza Sanremo? Sì, noi gli oggetti più scambiati variano, guardi, abbiamo scambiato una cucina completa di frigo, tutto quanto, perché questo ragazzo doveva fare il trasloco, ha messo l'annuncio, in giro di due giorni, track, andiamo. Una cucina scambiata con che cosa? No, lì l'ha regalata, perché doveva andare via, l'ha regalata. Perché poi è difficile anche stabilire le comparazioni tra gli oggetti. Io ho visto sul vostro profilo che c'era uno che scambiava una utilitaria, un'automobile e voleva un'utilitaria. Sa mica se è andata a buon fine quello scambio? No, non è tanto complicato, perché cosa succede? Se io ho barato una macchina con un'altra macchina di minor cilindrata, a me non mi interessa più quanto può costare la sua, quanto può costare la mia. Se la metto in baratto... Certo, è un'utilità che si cerca, non tanto... Tanto è l'utilità. Poi è logico, le spese di notarili, del cambio, del passaggio, quelle vanno pagate, quelle sono altre cose. Tra l'altro poi... Prego. No, appunto... queste cose qui ce le fanno, abbiamo scambiato delle motorine, abbiamo scambiato una cameretta da bambino, che ha messo cambio cameretta da bambino, a chiunque viene io metto la pittura, mi ripittura il muro e gli do la cameretta. Infatti sono andati, hanno pitturato il muro, poi gli sembrava male, si fa: guardi, gli ripitturiamo tutta la camera, gli sta bene? Sì, e gli ha ripitturato tutta la camera e gli ha regalato ancora due bottiglie di vino, hai capito? Ah, proprio, ci sono anche i bonus. No, perché devo dire che questa cosa del baratto non è che se l'ha inventata lei, però è curioso il modo in cui lei lo sta facendo. E devo dire anche che quando ci siamo sentiti per fissare l'intervista, lei mi ha detto che aveva appena barattato una insalata russa meravigliosa fatta, credo, dalla sua vicina di casa. Quindi anche gli alimenti. Sì, perché ho creato anche, praticamente i gruppi di Sanremo Baratto sono tre. Nel senso, Sanremo Baratto dove scambiamo gli oggetti, poi Sanremo Baratto alimenti dove si scambiano gli alimenti, chi c'ha i limoni li scambia con le arance, chi c'ha l'olio lo scambia con la marmellata, chi ci fa la marmellata lo scambia con tutti i generi alimentari. Questo è nato da poco, è nato il 9 di gennaio e anche lì ho molte richieste di adesione, siamo già arrivati a 150 membri, creato il 9 di qualche giorno fa diciamo. E poi abbiamo Sanremo Baratto Lavoro Offro e Cerco, dove chiunque è disoccupato, tutto gratis. A cominciare da lei, per esempio, io le auguro che magari... No, io ho messo anche il mio annuncio, cerca di come fruttivendolo lavoro nel supermercato. Comunque la gente mette lì il suo annuncio. Se va a vedere vedrà che il pittore che cerca lavoro, la segretaria che cerca lavoro... Tra l'altro diciamolo che lei ha anche le competenze, perché essendo è un ex dipendente di un supermercato, di oggetti diciamo così di consumo, se ne intende. Questo l'ha aiutata nel pensare questa attività? Certo, perché più che altro oggi come oggi appunto diciamo tutti c'è crisi, o si fa affitto o si mangia. Poi io sono una persona singola, nel senso che mia figlia è grande e tutto quanto, però il disoccupato che ha una famiglia o lavora solo la moglie, come fa? Da qualche parte i soldi li deve trovare per pagare l'affitto, il mutuo e tutto quanto. Allora, se risparmia già sul genere alimentare, certo, cosa succede? Anche quei 10-20 euro al giorno, diciamo, che avanzano, 300-400 euro al mese che risparmia, si possono investire in qualcos'altro. Certo, perché puoi comprare gli... Io le auguro buona fortuna, spero che qualche autorità locale di Sanremo l'abbia sentita e le offra uno spazio per questa attività, che per ora non è a fini di lucro, ma lei giustamente vorrebbe tirarci fuori anche una sua attività visto che è disoccupato. Grazie Massimo Salaris, disoccupato di Sanremo, che ha pensato al baratto su Facebook. Buona giornata. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby, if you give it to me. E questa è la canzone che gli abbiamo dedicato, io do a te e tu dai a me. Adesso però abbiamo un altro ascoltatore, forse sì, in linea, Ludovica da Roma. La domanda di oggi è: recuperare si può spazi, luoghi abbandonati delle vostre città? Buongiorno Ludovica. Buongiorno. Lei che cosa ci racconta? Sono contenta che mi abbiate chiamato, perché è veramente un argomento che penso sia interessante. Allora, noi abbiamo uno spazio in mezzo alle abitazioni, in mezzo al quartiere, che è stato sistemato e rimesso a posto dalle successive amministrazioni. Che quartiere è a Roma? Il quartiere è Axa Madonnetta. Benissimo. Cioè si trova molto vicino ad Ostia, fra Palocco ed Axa. Ed è stato ristrutturato. Poi che è successo? È stato ristrutturato, sono stati spesi molte centinaia di migliaia di euro. Dopodiché il parco è stato abbandonato. Io sono la presidente del comitato di quartiere, mi sono preoccupata di mandare lettere, di scrivere articoli, di fare sollecitazioni, di chiamare commissioni, eccetera, eccetera. Tutti vengono, che schifo. Naturalmente i pezzi che sono stati costruiti vengono demoliti pezzo per pezzo dai vari teppistelli che girano nella zona. Mi dispiace che questo succeda. succeda. E naturalmente uno spazio che potrebbe diventare un luogo di aggregazione, che potrebbe essere sistemato e usufruito per rendere la comunità più partecipe, eccetera eccetera, e invece è finito in malora. E allora speriamo, grazie Ludovica da Roma, che qualcuno stia ascoltando, qualcuno che può intervenire anche per questa storia. Si può fare, vi abbiamo chiesto oggi all'800 24 00 24 se si possono recuperare spazi, luoghi abbandonati delle vostre città. Siamo partiti da Palermo, dove è stato recuperato un parco in centro, il Parco dell'Uditore. Sono cominciati i lavori ed è una storia positiva che viene dalla Sicilia, a pochi passi da dove è stato prigioniero, dove è stato invece arrestato Totò Riina. E anche questa è una notizia, perché verrà assegnato il palazzo ad una caserma dei carabinieri. Abbiamo un'altra ascoltatrice che ci chiama da Lucca, Loredana è del FAI di Lucca. Buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi dato questa opportunità di parlare, che anche a Lucca il FAI è riuscito già a salvare il teatrino storico pubblico più piccolo del mondo, che si trova a Betriano, una piccola frazione nelle colline di Lucca. E questo teatrino da 10 anni, che era stato dichiarato inagibile, rivive una vita splendida, tant'è che dal 2008 ha iniziato una collaborazione con l'Accademia del Teatro alla Scala, e sono andate già in scena riduzioni di Tosca, di Madama Butterfly, con dei cast strepitosi, col soprano Silvana Froli, quindi cose bellissime. E nelle iniziative del FAI, dei luoghi del cuore, fatto in collaborazione con Banca Intesa San Paolo, la chiesa di Santa Caterina a Lucca, la chiesa delle sigaraie, perché si trova davanti alla manifattura, ex manifattura tabacchi, dove si faceva il famoso sigaro toscano. Bene, questa chiesina, grazie alle tantissime, oltre 20.000 firme raccolte per la manifestazione appunto dei luoghi del cuore, si è piazzata terza in questa classifica e ha ottenuto, grazie all'interessamento e al supporto della sovrintendenza, ha ottenuto già l'assegnazione di 800.000 euro per poter essere restaurata, perché è chiusa da 40 anni, è ecco. L'unico esempio del Settecento lucchese. Ci tolga però una curiosità, signora Loredana, diceva la chiesa di Santa Caterina a Lucca recuperata grazie all'intervento del FAI, si faranno i lavori recuperata, sì, insomma all'inizio di questo recupero, davanti alle sigaraie dove veniva fatto il sigaro toscano, non viene più fatto, dove lo fanno adesso il sigaro toscano? Allora, questo grosso edificio della manifattura era obsoleto, non più funzionante con le tecniche che ci sono al giorno d'oggi, chiaramente non era più, non rendeva più l'efficienza che serviva per la produzione, e quindi, insomma, quindi è stato spostato altrove, in un edificio nuovo con tutta la tecnologia moderna. Va bene, insomma, adesso... la modernizzazione. Grazie anche a Loredana che ci chiamava da Lucca. Adesso vediamo se c'è qualche notizia sul fronte della politica nazionale. Case Monti. Scusa, perché se la chiedo, scusa, interrompi, allora guarda, non ti faccio più parlare. Basta non dirlo a nessuno. Ascolta, condividi quel tipo di fai. Come siete bravi. Scusa, perché voi in Casa Monti non potete entrare. Insomma, con questa sigletta vogliamo maldestramente seguire un po' lo spirito di questo rinnovamento di governo, lo stile, la sobrietà di Mario Monti. Vediamo però se anche i fatti del governo Monti sono interessanti nella chiave delle buone notizie. Allora, dato che il blitz del fisco a Cortina aveva sollevato un po' di perplessità, perché si diceva vanno a colpire solo lì perché c'è un pregiudizio su Cortina, e invece poi la buona notizia è che i blitz sono arrivati dappertutto, ad Abano Terme, dove ci sono le terme, in Liguria, località di mare, e ieri, come sapete, anche a Roma, battuta a tappeto dagli agenti del fisco. Ma la vera buona notizia della settimana su questo fronte è un'altra, e cioè che l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che quest'anno ci sarà un aumento dei rimborsi per i contribuenti. Per oltre 1 milione di contribuenti sono in arrivo 900 milioni di euro di rimborsi fiscali in più. L'ha annunciato l'Agenzia delle Entrate che grazie all'operazione rimborsi ci sarà un aumento di circa il 60% del numero dei soggetti rimborsati rispetto all'anno scorso. Ci sarebbe poi anche il discorso delle auto blu con il giro di vite annunciato dal governo, tutti sui mezzi pubblici, i dipendenti delle istituzioni locali, però questa è una storia che abbiamo già sentito altre volte e bisognerà invece vedere se anche questa andrà a buon fine, se queste benedette auto blu diminuiranno. Tra poco invece con il prossimo ospite. Rifiuti come il nome del gruppo che suona questa canzone, di questo vogliamo parlare e di come riciclarli sia a volte faticoso, non solo perché non ci sono gli appositi contenitori, anche se ormai sono un po' dappertutto, ma anche e soprattutto perché ogni volta di fronte al cassonetto, oddio, questo dove lo metto, l'imballaggio degli alimenti, le lattine, il polistirolo, la carta oliata, non si sa mai dove metterla, nonostante i cartelli dei condomini messi un po' da tutte le parti o i pieghevoli che arrivano a casa di tutti e le manda il comune, c'è sempre qualche dubbio. E siccome oggi tutto si fa sul telefonino, ecco l'invenzione di uno studente, l'applicazione per smartphone. Salutiamo Francesco Cucari, studente di Rotondella in provincia di Matera. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Ecco, in che cosa consiste esattamente questa tua piccola invenzione che però ha già riscosso qualche successo? Sì, il dizionario dei rifiuti è un motore di ricerca che permette di risolvere tutti quei dubbi e perplessità legati al giusto conferimento dei rifiuti. È nata come un'applicazione per smartphone Android, ma dopo tutto il successo mediatico e numero di download ho realizzato una versione web del dizionario dei rifiuti raggiungibile sul sito www.dizionariodeirifiuti.it. E di fatto funziona così, si mette la parola, il rifiuto, il nome del rifiuto e ci viene indicato dove dobbiamo buttarlo, e questo vale anche per i telefonini, per gli smartphone. Però come la mettiamo col fatto che in ogni comune spesso le regole sono diverse, per cui a casa mia la carta oliata va nella carta, da un'altra parte va nella plastica, lo stesso per il polistirolo, eccetera. Sì, con il dizionario dei rifiuti è possibile effettuare due tipi di ricerche. Il primo tipo di ricerca è quella standard, che è una sorta di ricerca incrociata tra le varie società che si occupano di raccolta differenziata su tutto il territorio nazionale, mentre il secondo tipo di ricerca è quella geolocalizzata, cioè se un comune avrà aderito all'iniziativa denominata comune differente, il cittadino di questo comune potrà consultare ed effettuare una ricerca specifica in base al proprio comune e quindi avere informazioni dettagliate. Esatte, specifiche. Ci sono già dei comuni anche importanti che hanno aderito, ce li vuoi ricordare? Sì, al momento sono comuni differenti: Genova, Napoli, Belluno, il mio comune Rotondella e Ponte nelle Alpi, il comune più riciclone secondo il concorso organizzato da Lega Ambiente. E anche qua facciamo un appello a chi ci ascolta, perché aderire a questa iniziativa, che tra l'altro non costa nulla, l'applicazione è assolutamente gratuita, è interessante. Francesco, ma tu invece andare a giro con i tuoi amici, come fanno tutti i ragazzi, passi i pomeriggi a fare queste invenzioni? No, mi dedico comunque anche all'amicizia. Sì. Come un normale ragazzo diciottenne. Va bene, grazie. Monitoreremo questa simpatica e interessante invenzione, l'applicazione per smartphone che ci aiuta a riciclare i rifiuti. È tutto per la puntata di oggi. Vi ricordo soltanto che potete chiamare alla nostra segreteria telefonica all'828 12 12 per lanciare il vostro messaggio, la ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Buona settimana!